Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rime dai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, bentrovati, buon lunedì a tutti, un saluto da Caffè e Paglia, il coordinatore sportivo del lunedì mattina di Radio Città Fujiko, un saluto da Mingo qui nel salotto buono dello sport bolognese, al completo, finalmente ritorna al completo, c'è un grande Simone Maloni qui di fianco a me. Come va? Tutto perché a me va benissimo, voi altri? Cioè bene, ma non benissimo. Ho visto la partita ieri. Qualcosina abbiamo perso, però ho visto un meraviglioso gol della Sabrinettese. Mamma mia ragazzi. Un passaggio. Allora, non voglio... Chi è che ha dato quel passaggio a Palombella? Allora, non voglio esagerare. Non esagero mai. credo che Cristian Iaiunese, un ragazzino che avevo preso, non mi ricordo dove, nel nostro DS di Agnes, sia il giocatore più forte della storia del calcio. Ah, ok. Quello che fa la Palombella, ma non voglio esagerare. Stiamo ovviamente parlando della Sabrinettese che vince. Abbiamo tritato la Juventus. Aspetta, faccio come i giornalisti. Abbiamo tritato la Juventus next gen. Ma tu fai lo strillone Samba Juve 4-2 e poi next gen è scritto piccolo. Vabbè, quella è la Serie C, la seguiamo quest'anno. Grazie alla Sabrinettese e non solo, grazie anche a Ravenna, che ad esempio è ancora in grande corsa. E alla mia destra invece abbiamo la stella della trasmissione, lo salutiamo? Sta un po' arrabbiato, sta macchina, non gli è piaciuto tanto il 4-2-3-1, poi ne parliamo. Ma vada, buongiorno, un 5 alto con gli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh ragazzi, un po' arrabbiato, si può dare contrariato. Come si diceva dare... Umberto Tozzi, se non sbaglio. Anche, e insieme altri due. Era Gianni, non c'era Gianni Tozzi, esatto. Ruggeri, bravo. E si può dare di più, è vero, in realtà il pareggio è giusto, è il risultato giusto, quindi questo dobbiamo dirlo, è ovvio che quando lo subisce al 94esimo si soffre un po'. Possiamo entrare direttamente nel cuore della trasmissione di quest'oggi e ovviamente si parte dal Bologna, ci sono tante cose da dire, ne parleremo durante la trasmissione anche di altri sport, perché insomma possiamo dirlo, Simone, siamo campioni del mondo di volley sia al maschile che al femminile. Avevo in mente un pensiero su questo, in parallelo al fatto che non andiamo ai mondiali di calcio invece da due edizioni e ti devi guadagnare la possibilità di andare negli Stati Uniti. Mi è venuto in mente tante cose che non dico se no ci chiudono il programma. Quindi lasciamo stare. Campione del mondo sia al maschile che al femminile, siamo molto favorevole a specificare di quale disciplina sportiva si tratta, per cogliere l'occasione per ricordare a chi ci ascolta che abbiamo vinto la Coppa Italia del Lupallò. Cioè noi l'anno scorso siamo campioni in carica della Coppa Italia del Lupallò, del gioco. Vabbè, quella coccarda in mezzo alla maglia. È quella lì. Allora, buttiamoci dentro alla trasmissione e alla partita del Bologna, ovviamente. Yes. Si va a Lecce, prima partita dopo l'impegno di Coppa. Di cui parleremo nella parte calcio internazionale, avevamo uno presente e quindi ci racconterà un po' come è stata l'atmosfera di Birmingham, ma è la prima partita col doppio impegno, quindi ovviamente un po' di turnover, una squadra che non ha ancora le caratteristiche del Bologna di italiano dell'anno scorso. Noi avevamo detto il Bologna è una delle poche squadre che ha lo stesso allenatore, di quelli di testa, insomma, oltre a Napoli, diciamo così. Esatto. E quindi poteva essere un valore in più poter ripartire da lì. In realtà mi sembra ancora un po' un cantiere, un po' come era il Bologna di settembre dell'anno scorso, perché anche il Bologna di settembre dell'anno scorso, se non sbaglio, avevamo un punto in meno a parità di giornate. Sì. Adesso sto lo andando, dice la scienza, sto andando a memoria, scienza. Però dovrebbe essere così. Quindi in realtà era simile, diciamo, il percorso dal punto di vista dei punti. Ci sono però l'italiano era nuovo. Era nuovo, era, c'era il cambio, esatto. La situazione. La stagione grandiosa di Thiago Motta, era nato, proprio un'altra situazione. Un'altra situazione, allora. È vero che anche qui si è cambiato, è quello che può che capiterà sempre da qui davanti al Bologna o squadre di quella grandezza in questo calcio, che i due più forti se ne vanno. Cioè, più o meno questo è. È esattamente quello che è successo. Insomma, è un po' così, no? E quindi bisogna prepararsi anche a questo. Quindi l'allenatore è lo stesso, la squadra è leggermente diversa. Poi è ovvio che una squadra come il Bologna sta cercando di costruire cose nuove, sta cercando. Diciamo, il Bologna è stato molto studiato dagli altri allenatori. E quest'anno mi sembra, in questo inizio, che insomma, le coperture, il modo di difendere degli altri sia cambiato. Ah, certo, l'anno scorso sei stata la squadra più bella, possiamo dire, sei stata la squadra più bella. E poi un po' la sorpresa, nel senso hai che confermato la sorpresa e sei andata ad alzare un metallo molto pesante in Italia, che la Coppa Italia è un suo peso. Del lupallone. L'ho vista ieri la partita. E andavi a Lecce, che è partito malissimo, un punto nelle prime quattro. Con Di Francesco, che noi amiamo follemente, allora, lui ama il calcio, il calcio non ricambia, non ricambia probabilmente. Di Francesco e il Lecce hanno entrambi statistiche cattivissime contro il Bologna, cioè se si giocasse solo contro il Bologna, Di Francesco sarebbe nella top 5 degli allenatori italiani di tutti i tempi. Probabilmente sempre contro il Bologna. Sì. E il Lecce in casa, Via del Mare, ha una statistica decisamente favorevole, non tanto ai punti complessivi, alla media punti per incontro, ma quanto alla capacità di gestire le inerzie della partita e spostarle a suo favore contro il Bologna. Quindi è una partita in cui non puoi stare mai tranquillo, neanche quando guardi la classifica prima di iniziare, vedi il Lecce in coda a un solo punto. E vai lì con una formazione un po' rimaneggiata, obbligatorio il turnover dopo l'impegno di Birmingham, di cui parleremo più avanti nel corso del programma, io c'ero, e vedi un po' di turnover che è pressoché obbligato e non puoi non accoglierlo anche con un certo favore, perché un po' i giocatori devi vederli, perché hanno bisogno di fare sia gamba che testa. Sì, la prima sorpresa, diciamo, è la mancanza di un giocatore, che è Remo Freuler, incredibile, il Bologna senza Remo Freuler, evidentemente un po' che non si vedeva, non partiva in panca da quando c'era la lira. Esatto, ha giocato anche il Bologna-Genova di fine stagione, era titolare anche in quello, che era la partita meno utile della storia del Bologna. Esatto, più o meno. E infatti perso in maniera anche ignominiosa. Abbastanza inutile anche il risultato. Esatto. Sì. E quindi, però c'era presente, quindi evidentemente qualcosina c'era. È ovvio che giovedì si torna in campo, la prima in casa col Friburgo diventa già importante, bisogna fare punti se l'obiettivo, come insomma possiamo dirlo, è passare il turno, ovviamente, e passare il turno almeno come obiettivo minimo, diciamo, della stagione in Europa League è passare il turno. Probabilmente vedremo quindi Freuler titolare, però è Moro che sostituisce Freuler. Moro che tutt'estate sembrava non al centro del progetto, come un po' tutti gli anni, però si ritaglia un ruolo anche l'anno scorso, ma anche insomma è un po' di tempo che riesce alla fine. Ma perché c'è il piede educato, magari non è un fulmine, non è un fenomeno di guerra, nulla, però sa fare un po' tutto, corre, riesce a pressare, tutto nella media, però tutto. A me non è dispiaciuta la sua prestazione, cioè nell'andazzo generale la sua prestazione non mi è dispiaciuta. No, in effetti. Andiamo a vedere invece l'altra sorpresa, insomma la sorpresa è stato preso per farsi vedere, ovviamente, ma è arrivato proprio alla fine del mercato, quindi evidentemente aveva ancora un po' bisogno di tempo di entrare nella squadra, e Rowe, che è all'esordio da titolare, dopo averlo visto in Coppa. Come ti è sembrato? Il ragazzo è veloce, il ragazzo è leggero, ha l'istinto di fare la cosa giusta, è molto fuori dagli schemi, cioè molto fuori dal gioco corale, dalla griglia dei compagni. Ah, ma però è un che gol avete preso, ragazzi? Scusate, non volevo, stavo riguardando il gol preso. No, mi piace questo avanti veloce, perché è proprio il punto da cui, da no, cui iniziare allora, a raccontare questa cioè, allora, partita. Parliamo un attimino di come stava messo in campo. 4-2-3-1. No? Mi è sembrato di vedere per mettere a Dallinga un attimino di. Allora, a proposito, una cosa rapida, molto veloce. La barzelletta del centravanti che non segna, però appoggia, però apre il gioco, però fa da sponda, la potete raccontare a un ragazzetto di 20 anni. Noi altri che ci abbiamo 50, e passa, scusa Mingo, il centravanti deve segnare. Centravanti sì. Deve fare gol. Può essere pochi cazzi, il centravanti deve fare gol. Se io già vedo le formazioni, non c'è Cambiaghi, non c'è Castro e non mi ricordo chi ancora, non c'è. Capisco il turnover, però tu vai a Lecce, una squadra che deve cominciare a fare punti. Buone, ok. Non capisco, c'è qualcosa che non mi convince di profondo nel Bologna, ve lo dico già da un po'. Perché scherzando abbiamo detto ha fatto una specie di instant team prendendo Immobile e Bernardeschi. Ora, a casa mia se fai l'instant team vuol dire che hai preso due fuori classe. Tipo i Golden State Warriors, se stanno già dominando prendo Kevin Durant perché vuole proprio distruggere la Lega. Allora dici cazzo, hai preso beh, Kevin Durant, cioè, no ma l'instant team è quello, Mingo tu lo sai benissimo. Se tu vuoi fare un instant team con Bernardeschi e Immobile ti fermi a metà strada, cioè no, non fai un instant team. Ciao Bernardeschi, adesso Immobile ha visto 25 fatto male, minuti, ma tu, si è fatto male. Se prendi uno sopra i 35 e metti in conto che certo, ci può fa male. Certo. Vedi Bernardeschi, ditemi cosa ha fatto di utile a passi falsi a Munì con un fallo in ritardo, tutto scordinato. Non so, ciao, uno deve, se, Fio, aiutami perché sappiamo no, ma aspetta, che Simone non essere un appassionato. No, ripeto, non è da Sartori, non lavora così. Nel Bologna, nel Sartori, non vorrei che quest'anno sia un anno di pausa, diciamo, nel progetto. Il gol è preso, è ridicolo. C'è un blocco da 5 che va tutto a pressà in mezzo al centrocampo e nulla che fa, loro costruiscono dal basso con un lancio, hanno scavalcato due terzi di campo e sono arrivati davanti. Dopodiché prosegue, nessuno che fa la cosa giusta con i tempi giusti, due blocchi da 5, male. Questo perché? Perché tu sei passato dal tuo 4-3-3 con cui ti sei conquistato tutta la gloria giusta dell'anno scorso. Quando cominci faccio 4-3-3 però a metà strada, voglio fare una squadra di giovani in prospettiva, però intanto faccio l'istantino. Secondo me non è tanto il numeri... C'è un po' di confusione. I numeri in realtà non sono molto utili a capire il gioco d'italiano, perché comunque no, è sempre stato esatto. Un po'... un 4-1-4-1 4-3-3 dai italiano c'ha sempre avuto dai generalmente scorso, quello l'anno scorso non era il problema erano gli interpreti, quello che del mercato invece se posso fare una piccola critica è non avere trovato nessuno che abbia la qualità migliore di Ndoye, cioè la capacità di difendere anche entrambe le fasi sì, però tutta profondità Ndoye faceva la differenza anche quando faceva un gol, vero, c'è stato abbiamo stagione, sempre detto sì. Ha sbagliato uno, un giocatore gigante l'ha mandato da Frosinone però era un giocatore fantastico anche quando faceva un gol, figurati sì, quando sì. Ne ha fatti 8 l'anno scorso, cioè, detto a doppia cifra mi sa l'anno scorso fra tutto insomma. Infatti però l'avete venduto a 50, quando l'avete venduto infatti se è stato un grande affare. È stato un grande affare, però nel comparto degli esterni non c'è nessuno che abbia quella capacità di anche difendere. Certo. Bernardeschi non lo è. Non lo fate sentire più per cortesia. Vabbè, però è uno di quelli. E quindi quelli che hai preso quello, hai preso Ro, che comunque può essere un buono nella parte offensiva. Da costruire nella parte difensiva, non vorrei fosse un nuovo Ilin Junior, ecco questo Benji Dominguez ha lo stesso problema aggravato dal fatto che è molto piccolo, molto leggero, molto sottile. Lui ci prova anche a difendere ma veramente fisicamente quella che... è quella. Cambiaghi si sta impegnando in questa parte nella, diciamo anche in parte di copertura, ma non è il suo perché lui dovrebbe giocare. Ti ripeto, c'è qualcosa di che non va, qualcosa forse un po' di no, uso la parola confusione che forse magari non è giusta. Ok, c'è qualcosa. Ieri ho visto proprio brutto, un gol così è brutto prenderlo. Cioè, proprio male i movimenti allora, di tutti i blocchi dei giocatori, sia in blocco di reparto che singoli, poi quando alla fine il gol arriva. I movimenti sgraziati di reparto diventano terrificanti perché c'è una specie di velo di Lukumi davanti a Skorupski. Che da un lato terrebbe in gioco chiunque, cioè se ci fosse uno attaccato al palo sarebbe tenuto comunque in gioco da quella cosa lì, e manda fuori giri le coppie nell'area piccola. Sì, probabilmente il sogno prima dell'inizio del mercato del Bologna era vendere Lucumi e tenere Bocca. Questo era evidente. Scusa, ormai è abbastanza chiaro. Se l'allenatore dell'Olanda non faceva l'uscita che conosciamo, dicendo quelli che giocano nel Bologna non li convoco, più o meno era così, allora si poteva discutere un'altra cosa. A quel punto avresti venduto Lucumi a quello che voleva e ti tenevi quello buono dei due, quello buono che era Bocca, che era in grado anche di guidare di più la difesa. Adesso lo dovrebbe fare Lucumi, che già deve pensare a se stesso, che ogni tanto si perde, è dura, e deve anche guidare la difesa di persone che sono appena arrivate, quindi non è così semplice. Comunque, cioè, come ha detto giustamente, non stiamo qui a piangere per un pareggio in Via del Mare al 28 di settembre. C'è ancora da raccontare, cioè, un sacco di elementi, tra molte virgolette, positivi. Molti, tra cui la giacca del Bologna. Vabbè, la giacca del Bologna. No, cioè, l'avete vista la giacchetta che indossavate? Il track jacket. Ma quanto cazzo è bello! Ma così si macrona, ragazzi, sono bravi. Spero che non la lasciate mai macrona proprio qua. Spero che no. Dallinga, tanto criticato, tanti chilometri a vuoto, poco dialogo con i compagni, appena una palla buona e riesce a portarla in area, fa un movimento d'attaccante vero a proteggere nel possesso che gli fa guadagnare un calcio di rigore. Fino a quel momento è uno dei peggiori in campo, l'altro peggiore in campo fino a quel momento è Riccardo Orsolini, che trasforma e diventa il più grande marcatore del Bologna degli ultimi 30 anni, scavalcando Beppe Signori. È tanta roba. Tanta roba. Si va negli spogliatoi. Come fanno quelli che criticavano Orsolini. Tanta roba. Lo ha sempre sostenuto. Io l'ho sempre sostenuto. E poi io l'ho sempre insultato solo per motivi prettamente razziali. Ok, io proprio è una partita brutta in cui vai negli spogliatoi all'intervallo, comunque non col coltello da parte del manico, ma più tranquillo di quanto avresti potuto essere, perché comunque la prestazione del Lecce, fanalino di coda della Serie A, in quel momento ti ha impensierito. Ti ha due, tre legni hanno pure preso, perché nel primo tempo hanno già preso un legno, ne prenderanno un altro nel secondo. Fai dei cambi nel secondo tempo, non li fai subito in realtà, li fai cadenzati un po' più avanti, approfittando del fatto che il Lecce di Di Francesco pare accontentarsi di quel pareggio e inizia a spezzettare il gioco del Bologna, soprattutto, cioè a fare fallo sistematico. C'erano due linee strettissime da qua, veramente chiusi, sì, chiusi con interpreti chiusi, non irresistibili, ma messi in campo secondo me bene. Gallo commovente, avrà fatto tipo 85-86 km ieri, una cosa del genere. Sì, ci sono alcune prestazioni individuali davvero buone. Deve andare dal parrucchiere, ma bravo. La partita cambia e l'inerzia della partita sembra vagamente dalla nostra quando una palla portata in fondo da Bernardeschi, buttata in mezzo, servita pulita, leggera da Holm, viene scagliata, non scaldabagno, ma quasi, complice deviazione del difensore, e Jens Odegaard torna a segnare dopo un bel po'. Questa è una bella notizia. Questa è la più bella notizia di questa partita. Nel senso che sappiamo. Ce n'è una che interessa più tutta la nazione, più il ragazzino che pareggia. Secondo me è una grande notizia. Anche quella. Mi dispiace che un grande classico. Bologna segnano il primo gol in tanti, diciamo così. Anche Grandolfo, cioè, pensa te. Però anche Ronaldo. È vero, anche il più grande di tutti, esatto. Originale Ronaldo. Esatto. Anche lui Ronaldo segnando. Fenomeno e Grandolfo. In mezzo. Anche Gabigol. Lì in mezzo c'è l'arco costituzionale in cui si muove Francesco Camarda. Come prendiamo gol? Prendiamo un gol a un certo punto della partita, i nostri terzini scompaiono entrambi. Loro aggiungono il portiere tipo linebacker che spinge ancora di più, cioè, e guarda che Camarda comunque corre dietro il portiere. Ora non so se lui se n'è accorto in campo, perché anche a Telecunste vedo il dubbio che Camarda avesse corso la traccia apposta dietro il portiere per non farsi vedere, ha detto proprio in diretta. Il dubbio è venuto pure a me, non lo so, bisognerebbe chiedere a lui. Però ha messo un ragazzo che conosciamo tutti, perché questo segna 500 gol da quando c'ha 12 anni, assolutamente. Era già un nome conosciuto. A me sembra uno che è forte, cioè, che c'ha proprio il gol. Se ci fai caso, se ti devi ricordare, 6-7 minuti prima del gol che si realizza, a un certo punto prova a segnare a tipo 20 metri all'improvviso, cerca un pallonetto che non va fuori di tanti, cioè è uno che la porta, la vede, la sente, il gol è bello, il gol c'è, il gol è proprio l'incursione in area, poi al 94esimo, è del 2008 ragazzi. Non sentono lui, perché il gol è metà un grande colpo di testa di un giovanissimo molto forte fisicamente e molto alto, molto strutturato, e l'altra metà è Miranda che non salta, Miranda che Miranda rimane in campo male, perché viene male, viene sostituito l'altro terzino anch'esso malino, già moribondo. Cioè Holm cede il posto a De Silvestri, De Silvestri che che non causa è nipote, è ancora quel causa l'angolo, causa l'angolo, esatto, da cui arriva il gol, che è tanto lento, che dovrebbe diventare il terzo centrale, ma di fatto non riesce ad avere le distanze giuste dalla linea dei centrali. Ieri, non lo so, secondo me meglio Eggen di Lukumi, ma non irresistibili, forse nessuno. C'è ancora da lavorare. Sì, da parte, ecco, il vantaggio, sappiamo che Italiano è un allenatore che lavora molto e fa lavorare molto. E quindi allora, riesce a farlo. Come del resto, l'idea, soprattutto nella partita scorsa, ma che io avevo visto, intravisto dalla televisione, perché non ero allo stadio e non si riesce a capire bene, lo vedi una squadra che non ha quello schema classico che usi quello a volte, perché con la Roma, con Immobile, io ho visto quasi due punte, cioè Orsolini e Immobile molto paralleli e davanti, l'ha riproposto col Genoa dall'Inga Castro, quindi credo che quella sia una variazione su cui Italiano sta lavorando, perché è evidente che avendo loro imparato come gioca il Bologna d'Italiano devi variare, devi qualcosa, certo, qualcosa, l'idea ribadita è giusta, cioè, l'idea è giusta, quindi sei ancora un po' in fase di costruzione, diciamo, è ovvio che il bicchiere mezzo pieno racconta questo, ancora una fase di costruzione per creare una cosa un po' diversa, vero, da quella dell'anno scorso. Vediamo, è presto, abbiamo detto, certo, vediamo giovedì contro il Friburgo, perché il calendario è questo qui, il turnover è condizionato da questo, dalla linea del tempo con cui combattiamo e combatteremo per tutta la vita, perché quando è poetico oggi, tempus fugit, giochi così, giochi giovedì, domenica e giovedì di nuovo. Seconda parte di Caffè e Paglia, ci buttiamo dentro alla top 5, che è sempre presente in questa seconda parte. Ci sono state cose interessanti, di una ne avevamo già quasi accennato, insomma il gol al Bologna, il primo gol in Serie A del 2008, Camarda, e allora partiamo da lì, partiamo dalla gioventù. Partiamo da questi due giovani virgulti che sono pronti a fare impazzire i media mainstream che si occupano di calcio in Italia. Perché? Perché è così, perché in realtà si era... Perché ci serve come il pane, un centravanti buono. Perché ci serve come il pane, ci serve. Questo, insieme alla voglia, la grande voglia di speculare, di chi deve vendere quotidiani sportivi che si chiamano quotidiani perché escono tutti i giorni, senza fare nomi, la Gazzetta dello Sport, a oltranza, fa sì che gli occhiali rosa della presa bene si indossino per posare lo sguardo su due giocatori che effettivamente generavano aspettative anche prima, ma quest'anno finalmente paiono essere pronti a sbocciare. Ne abbiamo subito le conseguenze prendendo gol da Camarda al 94esimo. Oh, il gol è bello, rega. È da centravanti proprio. È da centravanti puro, sì. Si inserisce perfettamente. Miranda non salta, non lo sente neanche arrivare, non si sa cosa accade. Poi per Skolupski c'è veramente poco da fare, ma la prima pagina prima di Camarda l'aveva già presa, per banali motivi di calendario, l'Inter aveva già giocato, più Esposito. E beh, bel gol anche a me quello, piace eh, tanto anche lui. Bel giocatore, sta crescendo, riesce a giocare, perché il problema dei giocatori italiani, anche forti, è che non giocano. Non li fanno giocare, se non li fa giocare. E comunque è una famiglia di forti, perché tutti i fratellini sono forti. Anche gli altri due sono uno più forte dell'altro. Importante. Ora, chi è che deve segnarsi sti nome e stampassero in destra? Né Mingo, né Fio, né Dado e né Simone, ma Gennaro Gattuso. Allora, noi che dobbiamo fare con l'Italia? Devi ricostruire, sei a zero, parliamoci chiaro, sei a zero. Se mo tu c'hai un po' di maroni dove servono, tu fai piazza pulita degli attaccanti che c'hai là adesso e piazzi sui due e li fai giocare sempre. È il rischio di saltare un mondiale. Capirai. Tu devi costruire. tu devi costruire, non vale più, non so se è chiaro, non vale più il gioco ci serve quelli forti pronti subito perché dobbiamo qualificarci, no, perché tanto non ci qualifichiamo da due edizioni, cioè se tu continui a fare la stessa cosa sperando che ti dà un risultato diverso, e invece no, qua è ora che noi facciamo proprio tatta. Cambio di passo, cambio di paradigma. Assolutamente, assolutamente. Interessante lettura la tua, mi sento di condividerla abbastanza. Di più Esposito mi piacciono molto due cose: la rovesciata che a momenti entra, fatta contro il Sassuolo, che gli fa giustamente meritare almeno un trafiletto grosso, grosso come lui, perché poi è grosso. E il fatto che anche quando è l'unico Esposito in campo, lui si chiami più Esposito tutto attaccato. È una cosa che comunque ci sta. Sai cosa adoro? Che sia lui con i fratelli giocano con lo stesso numero, che è il 94 se non sbaglio, chiedo scusa se ho sbagliato numero, perché è il numero, che è il nome del campetto dove giocavano da bambini. Quindi si portano il playground dove sono cresciuti dietro, capito? Sono cose bello, bravo, ci piace. E quindi merita lo spazio nella vittoria dell'Inter a Cagliari, Lautaro Martinez e Pio Esposito a chiudere il discorso. Cagliari non è una brutta squadra, no, comunque. Assolutamente no, assolutamente. Ancora una volta. Assolutamente. Comunque io non sono mai d'accordo con Leo Adani e purtroppo Dio mi maledica, ma sono d'accordo con lui per quello che ha detto ieri. L'Inter non la si nomina ancora come giro scudetto, però ha ragione, gioca benissimo. Anche ieri l'azione di gol, cioè ancora il gioco che aveva interiorizzato con Inzaghi. Ha cambiato allenatore, ha preso uno giovane, c'è una serie. Che allenava l'Inter in primavera, già il giro. Sì, ha fatto il Parma, esatto. Però veniva dall'Inter in primavera. Prima come anche giocatore. E ovviamente uno di quelli del tripletto, sì. Giocatore che ha anche vinto qualcosina, e la scelta è quella. Anche a me, devo dire, alti e bassi, come può essere una fase di costruzione di questo genere, però non la darei per così, insomma, messa male. A 9 punti, vabbè, più o meno gli stessi che aveva l'anno scorso, rodato. Cioè è iniziato più o meno come l'anno scorso, quando invece c'era Inzaghi, quindi in questo è ancora tutto aperto. Belle parole sull'Inter, ma qualcuno è partito ancora meglio? Sì, alcune squadre sono partite meglio, nessuna è a punteggio pieno, già questa è la notizia. Alcune sono partite meglio, tra queste c'è l'insospettabile partenza di uno che non era affatto celebre per i suoi bei start, diciamo, ecco, di tutte le sue qualità, oltre alla simpatia, un'altra che noi gli attribuiamo. La simpatia è sopravvalutata, sono anni che te lo dico. Sì, ma non sono dobbiamo, anni che te lo dico. Ma non dobbiamo neanche esagerare, perché poi quando uno esagera sarà, è diventato troppo. E sì, un'altra cosa che gli faceva difetto, o almeno sembrava gli facesse difetto, era la capacità di partire col piede giusto. Invece quest'anno è una discreta sorpresa trovare lì davanti con 12 punti in 5 partite la Roma allenata dall'esordiente in giallo-rosso Gasperini. Sono curioso di sapere cosa ne pensa Simone. Allora, non mi ricordo dove l'ho letto, se no l'avrei citato volentieri, ma penso che siano molto veritiere queste parole. La storia tra Gasperini e la Roma può, a suo ultimo uomo, ricordo cosa posso citare, può finire o incredibilmente bene o incredibilmente male, perché sono due forze, come era quel detto, quando una forza irresistibile sbatte contro tipo un muro inamovibile succede qualcosa. Gasperini, che conosciamo tutti, ha ragione, più certo caratterino, che poi quando uno invecchia peggiora, non credo che migliori, quindi sarà pure peggiorato, è però signora tra i primi cinque allenatori d'Europa negli ultimi anni? Sì. Vogliamo dirlo? Sì, lo possiamo dire. Nostro malgrado, è vero. È così. E io mi ricordo che l'ultima volta che la Roma ha vinto, in panchina aveva un altro che, in quanto a simpatia proprio, siamo ai massimi livelli, no? Perché non mi ricordo un Fabio Capello particolarmente divertente. E quindi io credo che a Roma tu per vincere tu hai proprio bisogno di uno così. Può essere. E soprattutto con un'idea di calcio precisa, molto efficace, tantissimo efficace, già con l'Atalanta, quindi anche a Roma il livello qualitativo è alto. È vero che Sulè sta cominciando a lievitare bene come giocatore, bisogna stare molto attenti con la Roma di Gasperini. Che guarda più dietro È vero che l'Atalanta, l'avevamo anche scherzato degli anni, non è stata più solo quella che segnava tanti gol. La partita perfetta finisce 8-6 per noi, esatto, era più quella, anche l'Atalanta, facevamo le battute, ma Gasperini non sarà contento di essere la miglior difesa del campionato. E invece, clamoroso, perché in effetti in 5 partite ha subito un solo gol. È partito da lì. Da Simeone, tra l'altro. Sì. Per dire, cioè. Perdendo quella partita. Infatti sono 9 i punti. 12 punti. 12 scusa. Punti in 5 partite, 5 gol fatti, pochi, uno solo subito. È interessante la statistica. E in Italia di solito quando ne prendi pochi. Fai tanta strada. Fai tantissima strada. Soprattutto del valore di questo inizio per una piazza come Roma è importantissimo, perché se parti con 3 sconfitte, sei già fuori. Inizi ad avere il coso. Invece, partendo bene, tieni, anzi, sei primo in classifica, quindi di più lo posso chiedere. Ti autorizzi, sei ancora più simpatico. Esatto, questa cosa viene fuori e insomma puoi lavorare con più tranquillità, ecco, diciamo così. Segnaliamo che Gift Orban segna con tutte le mani dentro al pallone. Ne sbaglia pure uno da 20 centimetri. Ne sbaglia uno da distanza imbarazzante, però... il ragazzo c'ha della fotta, sì. E che i gol arrivano in testa, in coda, uno da un attaccante al centro del progetto che è Sulelo, abbiamo già citato, l'altro da uno che era ai margini dei gruppi sociali della squadra, che però apre le marcature con un gol alla Dovbik, cioè uno gol di testa che ti aspetti dall'attaccante centravanti esatto. Vero, e quindi lo segnaliamo anche lui, e complimenti a Gasperini che comunque marca 12, bravo lui marca 12 e va in testa alla classifica in buona compagnia, in compagnia delle due squadre che si sono affrontate ieri alla Scala del Calcio, nel big match che ci ha sottoposto una tortura psicologica. No, bella partita, dai. Bella partita, nostro malgrado masterclass allegriana. Allegri è entrato molto chiaro nello spogliatoio del Milan, e secondo me bisogna dire, quando deve fare quella cosa lì è uno dei più forti al mondo, cioè a difendere e ricompattare la squadra. Mi dispiace, lo so che tu non sei d'accordo, ma ragazzi, se uno deve non prenderle, ecco, Allegri è uno che sa come fare. Allora, come non prenderle. Una delle due squadre sembrava quella destinata al gioco frizzante per forza, quella che vincerà o può solo perdere a causa sua lo scudetto quest'anno. L'altra sembrava una squadra all'insegna della conservazione dell'ancien regime. Fatto sta che il Milan al 31esimo è in vantaggio 2-0 e Allegri inizia a predicare calma. Poi quando rimangono in 10 proprio calmissimo. Pensa nella sua testa cosa quella ammonizione, espulsione con rigore, che prima di peggio del possibile. Già quello era già nel piano gara, per poter dire ancora più forte calma. E al 31esimo abbiamo già il primo gol di Alexis Lemakers, che fa una specie di quinto per quinto perché parte indietro, ma in realtà lo fanno da attaccanti, non da quinti di centrocampo, mandano così in porta Lemakers, che potrebbe essere una figura chiave del questo calcio, che del calcio giocherà una partita settimana e avrà tempo per quindi insomma preparare bene le partite. Non puoi dire che Allegri non sappia preparare le partite. Il secondo gol nella chiave difensiva. È famoso per questo, alla fine lo sappiamo, lo conosciamo. Il secondo gol lo fa su assist di Fofana, che fa una grande partita anche lui, va detto. L'uomo copertina di questo big match, nostro malgrado, persona di estrema destra, persona indesiderata ai nostri microfoni, Christian Pulisic. Quanto è forte. Sì, lui è forte. Come quelli che si chiamano Frankenstein, perché lui è americano, si chiama Pulisic, ricordiamolo. Lui è molto triste perché la famiglia Kirk e la comunità politica dell'estrema destra americana hanno perso un grande protagonista, ma è un grande giocatore di pallone, e questo ci manda veramente ai matti. Questo Milan che può fare a meno di Leao, cioè nel senso, ma da mo che l'avevo impacchettato io, ho sempre detto questi microfoni, sempre detto da mo che l'avevo impacchettato, uno dei più sopravvalutati secondo te, però avercelo in panchina, è vero che se tieni in panchina Leao alla terza partita Leao, ma non c'ha cazzi, a questo gli piace incidere dischi, fare rap, perché proprio se ti piace ma questo secondo me non c'ha proprio voglia di capallone. Vabbè, però quell'altro è Santi Jimenez, quindi cioè devi fare delle scelte. Tu dici no, quello c'ha voglia di giocare, ma quello c'ha solo voglia, c'ha solo la gran fotta, vabbè, è così. 12 punti del Milan, 12 punti a cui si ferma anche il Napoli, che accorcia con un rigore, quello causato da Estupinan, rosso di Rep, giusto, cioè vero, trasformato da Kevin De Bruyne, che è un po' sottotono. È uscito un po' contrariato. È uscito anche un po' contrariato per fare posto a Elmas, uomo di fatica della tradizione del Napoli degli ultimi anni ormai. Ma non era andato tornato. Via, esatto, è andato, esatto, tornato, esatto, esatto. Sì, sì, tutto questo, ma non bastano i cambi. Quattro tutti insieme e un Gilmour. È entrato per esotico. Gara. No, è per, entrato per gara. È per quello che hanno perso. Il Napoli era praticamente con una difesa. Con la difesa, la terza difesa, se vogliamo dire, e quindi ha avuto un po' di problemi anche da quel punto di vista, soprattutto all'inizio. Però bisogna dire, allora, la coppia di centrali Juan Jesus Marianucci abbastanza da rivedere, Gutierrez non male invece. Ma Gutierrez era il ragazzino che volava sulla fascia del Girona, quando il Girona a un certo punto sembrava volesse vincere la Liga, quando un paio di anni fa è lui, è scuola Real Madrid il ragazzo, gran giocatore. È un bel giocatore. Gran bel giocatore. Comunque complimenti per questa condivisione della vetta della classifica anche al Napoli, nonostante Conte sia già sul piede di guerra, però dai, insomma. Ma lui sta sempre sul piede di guerra. È così, così che si costruisce quella legacy, sì, esatto, sì, sì. Esatto. Ha perso apposta per poter incassare un po', perché era troppo tranquillo. Ha detto di De Bruyne, voglio sperare che sia arrabbiato per il risultato, perché sempre qualcos'altro ha sbagliato per solo. Tiro la testata prima. Allora, visto che abbiamo parlato di due interpreti di calcio molto old school in questo punto di top 5, andiamo, apriamo le porte alla sperimentazione. Oh, what if in porta mettessimo una grossa sedia? Ma io chiederei all'Udinese. chiederei all'Udinese. L'Udinese di Costa Rugnac, uomo di calcio e di show, diciamolo, cioè, certo, sì, allenatore che abbiamo imparato comunque ad apprezzare per le sue caratteristiche di comunicatore più che di allenatore di pallone, che invece però è anche un allenatore di pallone, forse osasse un po' meno, potremmo vederlo meglio più da vicino, invece c'è questa cosa di mettere una grossa sedia in porta che sta caratterizzando gli ultimi impegni dell'Udinese, che sono costati 6 punti. Sì, effettivamente sì. Che sei punti e la probabile vetta, perché sarebbero a 13 se avessero 6 punti in più. A farne le spese, cioè a trarne beneficio, in questa occasione è il Sassuolo. Un brioso Sassuolo che, dopo aver fatto la B con la squadra da A dell'anno prima, cioè insomma. Adesso fa la A con una squadra. Con un reparto avanzato, comunque, che ci tocca definire interessante, perché lo è. Dobbiamo starci. Laurente Berardi Pinamondi, è bella che gli devi dire. Io so cosa dirgli. Se già la maglietta away faceva cagare, tu ti presenti con la maglia home, che è ancora più brutta, hai toppato la stagione. Stanno cercando di. Loro indossano quelle maglie per brutte, contare il numero di televisori a tubo catodico ancora presenti in Italia. Ma saranno 6-7. Perché quel verde là è quello che frigge. Sì, sì, sì. Che nel tubo catodico frigge. E poi hanno fatto appunto queste due striscette che sembrano proprio due fili, due cavetti che scendono di proprio brutta. Quello è tipo i catadiottri ai bordi dei camion. I bordi servono per vedere quanto è grosso il giocatore quando ti ha impallato la TV a tubo catodico. Vabbè, al di là di tutto, Loriente. Però per Fabio Berardi... Grosso sono contento. Per Fabio Grosso sono contento. Tra l'altro ha segnato nelle minori il che non si chiama Fabio Medio in omaggio a Fabio Junior. Avevamo, cioè, non è Fabio Junior. Non è così la legacy di Fabio Grosso. Esatto, non è così. Il nome, cioè, cambia e il cognome rimane uguale. Così, per chi si chiede. E a Frosinone, se non sbaglio. A Frosinone. Land of Fabio Grosso. Esatto. Bravo. Per l'Udinese segnaliamo Kenan Davis, che comunque la butta dentro, è tanto casino dietro, e Zaniolo, personaggio in cerca d'autore. Sì, ha fatto gol anche in Coppa Italia. Quindi si è ripreso. È tornato al gol, sono un altro. Coppa Italia, però questo è. Sassuolo che comunque ha 6 punti e delle, diciamo, neopromosse non è la migliore, perché rimane la super Cremonese. Grande Cremonese, ma è imbattuta la Cremonese? Sì, ha pareggiato, sì. Ha imbattuto il Cremonese. Credo sia più o meno ancora simile all'Leicester di Ranieri, adesso devo andare a controllare. Stanno pure Vardy, però ha fatto gli stessi risultati con lo stesso centravanti, adesso c'hanno anche lo stesso centravanti. Se invece mi chiedete qual è la neopromossa che ha raccolto troppo poco rispetto a quello che ci ha fatto vedere, io vi dico il Pisa. Il Pisa, diciamolo, il Pisa. Anche con il Napoli Pisa. Ha giocato una bella partita. Vero. Settimana prima, cos'era? Settimana scorsa. E, persa però Gagliarda e giocata e combattuta a Napoli, un posto dove non è facile vincere. E, pareggia 0-0 con la Fiorentina, che a questo punto possiamo definire la delusione di inizio campionato. No, e pareggio. Delusione, se c'è Pioli in panchina io non mi aspetto nient'altro. Mi sembra ingeneroso, ma non è ingeneroso, è stato cacciato a calci nel sedere dalla rabbia. che state dicendo? Cioè, se tu prendi un allenatore, riparti in un progetto, lo affidi a un uomo che è stato cacciato a calci dalla rabbia. Sì, ma non credo questa narrazione è sbagliata. Ma non... il Bologna ha vinto la Coppa Italia con un allenatore che è stato cacciato da Firenze. Dove aveva fatto tipo 3 finali di coppe consecutive portando la squadra, no, cioè il risultato aveva portato, cioè, questo l'ha cacciato all'Al Nassr. Però cioè, dai su, non sono assolutamente d'accordo con questa lettura apocalittica. Vabbè sarà intanto la Fiorentina di Pioli, comunque la Fiorentina fa schifo. C'era schifo anche l'anno scorso con Palladino, forse non così tanto. Aveva iniziato, ma ha fatto anche 6-7 vittorie consecutive. 8, se non mi sbaglio. Quindi, aspettiamo, vediamo se anche Pioli riuscirà a farla. Il Pisa, al Pisa manca un rigore, però. Sì, totale. Abbiamo visto rigori con mani molto più dubbie. Rigori dati. Quello al Pisa mi sembra abbastanza evidente. La mano è larga, appoggiata, lui fa il cross, la stoppa, cioè di più che doveva fare. Era rigore anche prima del cambio di regolamento, dal corpo, il regolamento e con la presenza del VAR è veramente incredibile non averla data. Il Pisa già ne aveva, non ne aveva avuto uno nelle partite scorse, forse a Napoli, non è fortunato in questo momento, però gioca a calcio e quindi proverà a giocare. Hanno preso Calvin Stengs, che era tipo che si è spaccato, però si è infortunato male e quindi non ci sarà. Pisa che verrà a Bologna, prossima avversaria in campionato del Bologna, chissà cosa aspettarci. Rimanendo in casa viola, ragazzi, prestazione orrenda di tutti, sì, tutti, cioè tutti è veramente imbarazzante, cioè è difficile. Uno dice ok, là davanti fanno del casino, ma da una squadra di Pioli che non è Lobanowski, ma non è neanche la mia vicina di Pianerottolo della porta dall'altro ascensore, ti aspetti che almeno la fase difensiva sia una cosa da cui partire. Cioè, ma me lo aspetto da qualsiasi allenatore che prende il diploma a Coverciano, qualsiasi italiano, italiano di più di 40 anni, vero. E invece no, anche dietro fanno del gran casino, alcuni interpreti sembrano proprio prestati al gioco del calcio e io non capisco l'involuzione, che poi adesso chiaramente quando ci giocheremo contro ci farà tripletta, ma l'involuzione per me più incredibile è quella di Gudmundsson, che da Genova all'anno sabbatico che si è preso nella stagione scorsa adesso sembra veramente 3 persone diverse. Ma lui diverse. Non sta sotto processo, lui non sta aspettando, o mi sbaglio con un altro giocatore? No, lui era uno di quelli che aveva guarda qualcosa. Che queste sono cose che ti possono, no? Ma possono lavorarti sulla capoccia male, è attenzione. Difficile tenere dritto, però cioè, non andrei a prendere il singolo in un macello come questo generale di Firenze, vero, cioè, vero, quando vero. Va tutto male, anche insomma. Protagonisti in positivo degli scorsi anni come Dodò e Ken, il capocannoniere, non nel capo perché era del Tegui, però uno degli attaccanti crack della scorsa stagione, non stanno Ken non ha ancora segnato l'anno scorso, no. Sì. È ancora lì e tra l'altro le anche di grandi prestazioni, quindi insomma uno dei motivi può anche essere quello. 3 gol fatti e 6 subiti nelle prime 5 partite per la Fiorentina, che ha con tre il portiere punti. Più pagato della Serie A, ah, è vero, ricordiamo quello che non c'è un dato a favore di Pioli, non ce n'è uno no in questo momento, no. È pari al Verona, ecco, che comunque prima citavamo come battuta dalla Roma, però che dimostra di avere un altro direttore sportivo che comunque qualcosa, Scogliano, niente male, cioè ha un database infinito soprattutto di cognomi strani, di robe a lui piacciono, quelli hanno che... prestato a Catanzaro un ragazzetto, niente male, ci segue, ha già cominciato a bombardare, ci sa fare. Prende giocatori che insomma non sono sicuramente pagati molto, fuori dai radar, però in effetti riesce a mettere su con pochi soldi una squadra che insomma è squadra, ed è in questo momento appunto pari alla Fiorentina e alla Lazio. Lazio che deve ancora giocare perché mancano due partite, se non vado errato. Sì, golosissimi. Golosissimi. Allora alle 18:30 tenetevi liberi perché c'è Parma-Torino. Io posso capire Genoa-Lazio il lunedì sera alle 20:45. No, Genoa-Lazio è una bella partita. Ma Parma-Torino alle 6:30 del lunedì, tu sei una persona sgarbata. Sei proprio sgarbato dentro. Ma Parma-Torino non è quella partita in cui ci può scappare il giovane super. Sì, bravo, l'orario. Vabbè, l'orario è un po' di merda. L'orario è lunedì. È lunedì alle 18:30. Un po' di merda, sì. Va bene, possiamo fermarci qui, le abbiamo lette tutte e cinque. Oh, erano tutte e cinque e la top 5 è fatta così. Terza parte di Caffè Paglia dedicata al calcio internazionale e essendo appena tornato, diciamo così, da Birmingham, il nostro Fio, io partirei da lì, dall'Europa League. È iniziata l'Europa League del Bologna, prima partita a Birmingham, ormai un'abitudine, diciamo così, un'abitudine. Classico viaggio a Birmingham che capita ai bolognesi in questo periodo, più o meno era lo stesso periodo. Noi ormai padroneggiamo la città di Birmingham abbastanza bene. Birmingham non è una città facilissima perché è un minuscolo centro storico rispetto a quanto è grande la città. Città che è da città molto industriale, sta avendo una trasformazione che potremmo vagamente assimilare a quella che ha avuto Milano negli anni, diventata città industriale, città del... di cosa? Città della fuffa? Non può diventarlo Birmingham, perché la fuffa in Inghilterra c'è già ed è a Londra, però è la seconda città del Regno Unito, un piccolissimo centro storico, una parte molto interessante con canali chiusi e sostegni che insomma ricordano i nostri paesaggi di periferia et suburbani, e le distanze, beh, insomma, cammini tanto, giri, pare devi avere dei punti di riferimento. Noi ci troviamo bene, Villa Park, stadio eccezionale, bellissimo, da vedere, per vedere la partita è forse il posto più bello in cui io sia mai stato in Europa, perché il settore ospiti è attaccato alla curva di casa, al lato più caldo dei tifosi della Aston Villa, ed è in campo, cioè è un distinto laterale attaccato all'out. Da qui abbiamo avuto il piacere di vedere un buon primo tempo, anche molto buono, dell'Aston Villa e una ripresa in cui il Bologna ha provato a fare il suo. E, dal campo la nostra suggestione sulla prestazione del Bologna è stata forse meno rosea di quello che abbiamo letto sulla partita commentata, guardandola in televisione, commentata dai grandi critici di calcio. Però alcuni elementi, alcuni spunti positivi li abbiamo sicuramente salvati. Salutiamo il Sacred Heart of Aston, che è un pub community center, un po' centro sociale, nel quartiere dello stadio, che fa comunque un servizio alla comunità e fa vedere le partite, ed è frequentato solo da tifosi di Aston Villa e da noi quando partiamo da Bologna, che ci andiamo volentieri. Ormai è un'abitudine. Io rimasi rapito. Avete portato qualche omaggio? Sì, ormai siete amici. Avrei portato un barattoletto di D'Aguso, avrei portato un presente. Abbiamo portato, che ne so, una gentilezza della presa bene e lasciato un grande miliardi, contributo miliardi, al PIL a colpi di birre. Quello è stato il regalo, diciamo così, il classico regalo che possono fare. Della partita dobbiamo dire che il gol lo fa McGinn, che è un... Ha fatto gol anche l'altra volta. Sì, aveva fatto gol anche l'altra volta ed è comunque... Ed è comunque una bandiera dell'Aston Villa, e che il rigore... Una coreografia curiosa che non avevo visto perché ero al lavoro. Curiosa la coreografia loro, Fio, tu che l'hai dell'Aston vista. Villa? Dell'Aston Villa. Con le Polaroid. Esatto, con le Polaroid, uno ficcato a forma di fiore, non so cosa. Voi eravate di fianco lì? Noi eravamo esattamente guardando la curva di casa, eravamo alla destra della curva di casa. Okay, in una sorta di distinto laterale, ma attaccato al campo, veramente attaccato al campo. Certo. E dobbiamo dire cosa? Grande Luca Scolucci che para un rigore che non c'è perché ci sono 50 falli prima, gestione arbitrale non irresistibile, risultato alla fine, se vuoi giusto, se facevi un punto eri un grande. Sì. Perché hai comunque giocato con personalità sul campo di una seria candidata a vincere il titolo. Ma siccome il calcio non è mai abbastanza, voi avete fatto un salto anche a vedere un po' le minors. Si giocava il Birmingham City, l'altra squadra di Birmingham, a Coventry, che è a 30 km, proprio lì, attaccato. Purtroppo c'erano solo disponibili dei biglietti hospitality che costavano uno stonfo. Per essere veramente un livello basso. Giocava il Wolverhampton col Tottenham, e anche lì comunque Premier League, devo dire che insomma noi avevamo già speso abbastanza in birra per poterci permettere di continuare a sovvenzionare il PIL dell'industria calcistica inglese, finché guardando il calendario non abbiamo trovato un incontro di National League, di non league, mamma che bello, loro, che faceva proprio al caso nostro, è la quarta, la serie che D, che bello, è la serie D inglese. Ah, la serie D l'abbiamo amata tutti qua dentro, quindi vedo del rosso blu, esatto. In giro ce n'è del rosso blu, noi siamo andati a vedere quella che è diventata la nostra squadra giallo-blu preferita. Ah, ok. Il Solihull Moor, i grifoni di Solihull. Solihull, oddio, noi pensavamo fosse un borghetto, è una città di 95.000 abitanti. C'è la fabbrica di Land Rover Jaguar, una città industriale, tuttora città industriale, con un impianto, con un manto erboso che non sfigurerebbe in Serie A, una struttura che abbiamo visto di peggio in Serie B, metà dello stadio è coperto, per dire. Cioè metà dei posti sono coperti. Posti 2-3.000, 5.000 ufficialmente. Buono. Serie di bravo Fio che sei andato a vedere le minors inglesi. Vittoria 1-0 della squadra di casa che non aveva mai vinto. Grande Fio. Non stava andando male, ma non riusciva a concretizzare. Molto bello il gol non è molto bello, il gol è tutta una roba di rimpallo, assomiglia alla Serie D inglese. Allora, in realtà la Serie D inglese è codificata ormai come il calcio vero. Noi abbiamo fatto molto la gag, il biglietto costa 16 sterline, ma se c'è un rigore te lo fanno tirare a te. No, non è vero, giocano come al calcio vero. Oddio, ma sarebbe bellissimo. E no, lì ironizzavamo, te lo fanno tirare a te, gli fai il cucchiaio, il portiere di Serie D inglese, si come uccide. Unica skill ha quella di rimanere fermo. Quindi fai una figura veramente pessima. E segna Creaney, si chiama Daniel Creaney, ex attaccante. Bologna, no? No, non mi sbaglio. Vito Creaney. No. Daniel Creaney, che per festeggiare si butta scavalcando i tabelloni dentro al settore. Tutto molto bello. E tutto prende un giallo godereccio, tutto meritatissimo. Molto bello. E il Solihull riprende a volare, riprende, si riaggancia a zone più confortevoli della classifica. Alle spalle del Barkley Town. Che belle le mani. Biancorossi, di cui sappiamo molto poco, se non una signora. Allora, la prossima trasferta che farai l'anno prossimo a Birmingham. Abbiamo fatto molta balotta con questa signora tifosa del Barkley Town. Là sono mescolate le tifoserie. La cultura hooligan nasce da questa cosa di prendere spazio nei campi degli Arts. Insomma, sappiamo, è ancora così in non league. La signora con la sciarpa del Barkley Town, che era di lontane origini siciliane. E in italiano sapeva dire solo buongiorno. brava persona, bella la minor inglese. Bravo Fio, va sempre al St. James Park di Brackley. Si chiama St. James Park, lo stadio del Brackley. Nome evocativo, esatto. Perché comunque te lo devi rischiare. Però 3.500, questo è un po' più piccolo di quell'altro. Vabbè, andiamo a vedere anche. 3.500, non è male, insomma. Per la Serie D. Buono. È una buona situazione. Bene, questo per quanto riguarda il viaggio in Inghilterra. Un quarto d'ora d'Inghilterra, ragazzi. Esatto. Quindi andiamo lì e rimaniamo lì nel campionato, quello che non piace a Simone, perché qualcosa perché è successo. Perché fa cagare, adesso non esageriamo. Il Liverpool ha perso, questa era la novità. È stato un po'. Sono cadute. Ma ha perso varie contro il Crystal Palace, è rosso-blu. quindi va bene. È ottima la situazione. In rimonta poi, che erano andati in vantaggio. Svantaggio con Chiesa. E poi Liverpool in vantaggio con Chiesa. Leoni che in settimana si è spaccato tutto, a proposito di giovani italiani che insomma iniziavano un'esperienza importante a Liverpool, per lui insomma, è finita presto, nel senso che dicono stagione finita. E quindi se ne riparlerà. Rimane comunque in vetta alla classifica il Liverpool, che le aveva vinte tutte prima di questa, con due punti di vantaggio sull'Arsenal, che vince 2-1 a Newcastle, sì. Sfida importante. Tipo al 98esimo segna Gabriel, ho visto le immagini, un gol gollonzo quasi. Molta zona Cesarini, ma sì, anche sì. Il gol del Crystal Palace che condanna il Liverpool lo fa anche Tia al 97esimo. Sì. Una cosa del genere, bravi. E, al terzo posto è salito il Crystal Palace a questo punto con la vittoria appunto contro il Liverpool. Crystal Palace che ha vinto gran periodo. L'anno scorso è stato l'anno delle coppe nazionali vinte da squadre rosso-blu, il regno del terrore rosso-blu. Esatto. Vestite di Macron e anche Crystal Palace, se non mi sbaglio, anche Crystal Palace, anche il Solihull Moor è una squadra Macron. Infatti pensavamo di fare una mail falsa chiocciola Macron, ci salutiamo. non c'è stato bisogno. Diciamo appunto, al terzo posto c'è il Crystal Palace e al quarto posto un terzetto, Tottenham, Sunderland e Bournemouth, con il Tottenham si sembra un po' risvegliato dopo la vittoria in Europa League dell'anno scorso. Si è risvegliata anche la Aston Villa, che dopo che ha preso il brodino con noi è andata a vincere la sua prima vittoria in campionato, rimane lì in basso perché ha 6 punti in 6 partite, comunque davanti al Nottingham, che ha esonerato Nuno Espirito Santo, che è diventato allenatore del West Ham. Del West Ham, incredibile, che gioca stasera, se non sbaglio, con l'Everton. A Liverpool con l'Everton. Una barzelletta. West Ham che è partito molto male, era pari all'Aston Villa prima della vittoria dell'Aston Villa, e appunto 3 punti, rimane solo il Wolverhampton a un punto sotto il West Ham, e che vedremo, dovrà giocare stasera appunto contro l'Everton. Beh, cambiamo campionato. Sì, dove un'altra, un'altra grande che è caduta è il Real Madrid. È caduta clamoroso. Pure malissimo, è caduta, cioè, fatta proprio male. Bel tonfo, avevamo parlato bene la settimana scorsa il fatto che Xabi Alonso era già entrato molto nel clima del Real, la squadra sembrava rispondere in maniera molto positiva. Cinque gnocchi, manita in faccia nel derby. Poi. In un Atletico Madrid di cui avevamo detto la partenza non brillante, quindi l'abbiamo tirata. Simeone ha ascoltato la trasmissione o il podcast, non so se magari adesso. Si è arrabbiato, si è arrabbiato. Punto nell'orgoglio. Manita. 5-2, insomma, per un derby il più sentito, tra l'altro, ma non 5-2 combattuto, perché Reale parte in vantaggio, se non mi sbaglio, parte l'Atletico Madrid in vantaggio e poi 2-1 per il Real Madrid. E lì parte con anche un gol annullato per l'Atletico Madrid la con Julian Alvarez in giornata, insomma, in giornatina proprio. Che la partita si poteva mettere bene, si è capito quando al 48esimo del primo tempo hanno pareggiato l'Atletico Madrid, ma il secondo tempo è una cavalcata dei Colchoneros, tre gol segnati, immagino la festa in quella parte della città. Real Madrid che è la prima sconfitta e che quindi viene superato dal Barcellona, che zitto 4-4 batte 2-1 la Real Sociedad. Allora, abbiamo un problema, le nostre squadre del cuore stanno andando tutte male, molto male tra l'altro. Non male, tutte molto male. Girona, che avevi citato prima, è all'ultimo posto, malissimo, 3 punti in 7 giornate, ha già giocato 7 partite ed è la situazione peggiore. Le nostre squadre, lo Sasunia è al 13esimo posto, le basche non stanno andando bene, nessuna. Il Rayo Vallecano ha perso in casa da Siviglia, insomma, quella situazione. Rayo Vallecano che però giocherà in conference, sarà vero. Inizierà in conference, credo dopo 25 anni ritorna in Europa, dopo moltissimo torna in Europa per giocare la Conference. Grazie, questo per quanto riguarda appunto il campionato spagnolo. Valencia Real Oviedo questa sera per completare la giornata. Al volo una cosa che farà piacere al nostro Simone: il Villarreal sta andando bene, iniziando a giocare a calcio rispetto a come ce lo ricordavamo qualche anno fa. C'è uno dei tuoi pallini di diversi anni fa, quel Tejon Buchanan, quello lì. È passato anche per l'Inter. Non lasciando traccia. Si fece male anche lui. Grosso infortunio, perché quelle 2-3 volte che ha visto il campo invece era piaciuto ai tifosi, me lo ricordo anche po' di messaggi sui social. Il ragazzo sta andando bene, ho fatto una tripletta un mesetto fa, poi ha continuato a offrire belle prestazioni. Sono molto contento per lui, perché insomma l'infortunio era serio. Certo, ritorno. Yeah. Vedremo, è un posto dove si può giocare a calcio, riprendere a giocare a calcio. Per correre uno come lui, con gli spazi, che può correre, perfetto. Ma invece vi ricordate quando avevamo detto parleremo di Ligue 1 solo nel momento in cui il Paris Saint-Germain perde? Ora, cioè, questa giornata ha vinto 2-0 contro l'Auxerre, ma noi eravamo già andati in onda e doveva ancora giocare il più derby dei partitori francesi di alta classifica a Marsiglia contro l'Olympique, uno degli stadi più belli del creato, al Velodrome, e più belli in assoluto proprio. E un autogol di Marchinho a inizio partita trasforma un mucchio selvaggio in un'ora e mezza, e tre punti per l'Olympique di Marsiglia. Eh sì, bella vittoria per l'Olympique, un autogol. Un autogol. Per dare la vittoria. Ancora per più gusto alla vittoria, diciamo. A questo così. Punto il Paris Saint-Germain è primo, però pari merito con il Lione, 12 punti, entrambe dopo 6 giornate. Il Marsiglia è lì. A 12 punti insieme al Monaco e allo Strasburgo, che continua a macinare molto bene. Esatto, sì, lo Strasburgo dei giovani, banda di ragazzini fantastici, che fantastici. Arriva appunto è ben partita in campionato. Passiamo alla Bundesliga, dove troveremo invece l'avversario di questa settimana del Bologna, perché c'è il Friburgo. Pareggino in casa contro l'Hoffenheim. Sono amici questi qua, mo ve lo dico, amici della Samba. Quelli sono amici nostri. Vabbè, allora, fare i bravi. Gli piacciono i colori rosso-blu, probabilmente. Anche se loro sono bianco-neri. Bianco-neri. Molto bianchi, ma bianco-neri. Che dire del Friburgo? Un campionato in questo momento non brillantissimo, si è lì a 8° posto, 7 punti, insieme al mio Colonia, che ha perso questa settimana purtroppo. Ci gioca Vincenzo Grifo, ecco, che è uno di quelli dove siamo andati a piangere in momenti cupi della nostra nazionale per cercare degli interpreti in mezzo al campo. È vero, è la squadra di Grifo. Dall'altra parte rimane il Bayern Monaco Trita Sassi, che continua a vincere, vince 4-0 l'ho visto le contro immagini, Werder Bremen. Noiosissimo proprio, male. In realtà la partita più sfiziosa della settimana è Mönchengladbach Eintracht di Francoforte. L'Eintracht vinceva tranquillamente 5-0 in trasferta nel primo tempo, la partita finisce 6-4, cioè finisce 4-6. Ma che cazzo dici? Non ho visto neanche un'immagine. Deve recuperarsi. 5-0 nel primo tempo per l'Eintracht, che proprio inizia così alla grande. Poi fa anche il sesto. Fa il sesto subito. E poi ne prende 4. È mollato proprio. L'ultimo al 99esimo, però insomma, sì, bella partita. Avevano mollato proprio. Partita particolare per risultato, insomma, non da più da Premier che da Bundesliga. Esatto. Appunto il mio Colonia, dicevo, perde 2-1 contro lo Stoccarda e rimane interessante il dato di Kane, che in questo momento ha 5 partite, ha giocato 10 gol e 3 assist. Ma sta tenendo la media di 2 gol a partita. Ti posso dire, gol e mezzo assist. Ti posso dire, questi sono i giocatori che in assoluto io meno preferisco. I tipi come Enrique sono quelli che proprio meno preferisco. Proprio adesso che ha vinto il suo primo scudetto. È proprio quello il fatto, perché tu hai deciso dopo una carriera così di andare a vincere, di andare a fare il pesce gigante nello stagnetto piccolo. Perché se tu vai nella Bundesliga col Bayern Monaco, sei lo squalo gigante dentro un acquario minuscolo. Sì, ho capito. E lo vedi che continua a sommare. Il primo l'ha perso. Il primo anno che ha dato è proprio casualmente l'ha perso. Perché se vai su Marone agli dèi, e poi succede sta roba, capito? Ha vinto le vergogne. E poi succede sta roba. Il primo anno che ha giocato al Bayern. No, non amo i giocatori così. Comunque gol lo sa fare, possiamo dire quello, c'è una 500, è evidente che li sa fare i gol. E comunque 10 gol in 5 partite. Perché non possiamo lamentarci molto del ragazzo, dai, il ragazzo va. Abbiamo chiuso con la Germania, non abbiamo ancora detto niente del nostro campionato preferito. Vabbè, il campionato belga, c'è la grande vittoria del Mechelen, mamma che mia, vince raga contro lo Charleroi, e continua a volare in, al terzo posto in classifica, quindi si potrebbe giocare anche lo scudetto. Hai capito, sì, scudetto. Hai capito, sì. Lo Stade Liège lì traccheggia, arrivare lì a undicesimo alle standard. È molto dolorosa questa sconfitta per 2-1 in casa, perché è contro il Club Brugge. Cabra, e quindi insomma la rivalità malissimo, più malissimo. Storica dei ragazzi di Liège. Club Brugge che è secondo, primo ancora Royal Union Saint-Gilloise. L'abbiamo un po' tirata al Saint-Truiden, che era un po' la sorpresa inizio campionato, non vince più. Noi dovremmo smetterla di simpatizzare, esatto, perché vanno male, esatto, le dopo, squadre dopo, non diciamo più niente. L'ultimo rimane il Dender, che comunque era già uno. Il Dender ha un bel tabellino, perché in 9 partite ha subito 13 gol, ma ne ha fatti 2. Vabbè, in 9 partite, 2 gol, diciamo che da un punto di vista la fase offensiva ci sta, c'è da lavorare un po', c'è da lavorare un po'. Ma andiamo al calcio. Andiamo al calcio che conta. Andiamo al calcio che conta. Andiamo alla Serie C. No, girone B. B. Girone B. Come stanno i ragazzi che in 4 giorni si sono presi gli scalpi di Perugia e Juventus, quindi sono 2 vittorie di filo, una in trasferta a Perugia, una in casa davanti a 7.000 persone di sabato pomeriggio alle 3. 7.000 eravamo di nuovo. C'è questo spettacolare pirotecnico 4-2 sullo Juventus Next Gen, vestiti chiaramente di bianconero, quindi sai, comincia a far fare con la terza maglia del Sassuolo, capito, esatto, comincia a fare certo effetto. E molto bene soprattutto che cosa? La reazione dello staff tecnico capitanato da coach Ottavio Palladini alle difficoltà che c'erano state fino adesso. Sì, la partenza ovviamente ne ho promossa, devi capire il campionato, esatto, e tutto, la partenza un po', così, un po' così, due sconfitte, no? Di fila a Riviera, capito, che di solito insomma un fortino inespugnabile, invece era stato già violato 2 volte, e invece c'è stata reazione. Io avevo un po' paura che lo staff non fosse ancora diciamo pronto per il professionismo, e invece grande reazione dello staff, hanno lavorato, hanno cambiato qualcosa, adesso siamo a qualcosa di più vicino ad un 4-3-3 rispetto al 4-2, quasi 4 che... con cui coraggiosamente 4-2-3-1, molto coraggioso ma un po' esposto, adesso è così, c'è un centrocampista in più che è Moussa Touré, che in coppia con Candellori è tanta roba, un Touré deve... quando devi proteggere, deve essere, no, noi ce l'abbiamo due, noi ce l'abbiamo due Touré, giusto, giusto, due Touré e un Konaté, quindi raga siamo come nome roba da Champions League, un Konaté e due Touré. Adesso a parte scherzi, squadra che si sta trovando, come mi piace dire a me, ieri grande prestazione di il capitano Eusebico, doppietta, poteva essere pure tripletta, quasi poker, gol, pali, traverse, il primo gol è una mazzata tutta la traversa che ha quasi piegato le mani a Pochettino Juve. Subiamo 2 gol dove ancora i nostri centrali devono capire che la Serie C va ad una velocità diversa rispetto alla Serie D, proprio, cioè, parlo proprio della reazione degli attaccanti che vai ad incontrare, ok? Sono molto più veloci e quindi ci vuole che il nostro reparto dietro capisca i ritmi, però grande vittoria, 4-2 con un gol finale, il quarto gol di Cristian Iaiunese al debutto, gol meraviglioso, se potete andate a vedere gli highlights, una palombella di sinistro su assist di Eusebi sotto la Nord che esplode, 4-2, festa, tutto molto bello, visto, veramente bello. Tutto molto bello, chiamiamo 11 se non mi sbaglio in classifica, sì, 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, non male, va bene così. Allora, va bene così. La particolarità di quest'anno, cioè, Bongelli, ragazzino, non l'ho ancora nominato, è un ragazzetto di 18, aveva già esordito mi sembra a Perugia se non ricordo male, ma è un altro molto buono, molto coraggioso il coach con i nostri ragazzini, molto coraggioso. Bravi, vi voglio bene raga, vabbè, così importante appunto anche questa chiave del far giocare i giovani, la Serie C dovrebbe comunque dare spazio ai giovani per farsi le ossa, e anche quegli altri volano e gli altri stanno correndo, maledetti, sì. Stanno correndo come pazzi, è a 18 punti in 7 partite, ma anche Ravenna a 18 punti. C'è quel Tenkorang là che è nera di Dio. Una bella squadra. Poi è vero che la Serie C ha un playoff mostruoso, infinito. Si inizia dai 32. Sì, è una cosa grossa. È uno spettacolo. 32esimi di finale vuol dire che sono 64 squadre. E così a dimezzarsi. Guarda che è uno spettacolo davvero. Cioè, praticamente tutte. Noi in questo momento siamo in piena zona playoff. Assolutamente, zona playoff, zona da 32esimi. Cioè, nel senso che a seconda del piazzamento tu parti. Ma non sono 64 perché in realtà ci sono altre squadre che vengono che passano i turni successivi, quindi sono un po' meno, però sono tante squadre. 60, quando sono 60 le squadre di Serie C, non sì, sarebbe un po' troppo. Sì, 4 di Serie D che fanno lo playoff di Serie C, comunque sono i 32esimi finali, nel senso che c'è un turno. Quegli altri in più. Infami non hanno ancora subito una cosa, e l'Ascoli no, ancora 0, ancora 0 gol subiti, 0 gol subiti, 11 gol fatti. Ma tanto arriviamo il 26 ottobre, arriva, ok belli, c'è la questura che sta così, raga, la questura sta così. Immagino sta così la questura, beffa del calendario, e poi andiamo in pausa. Beffa del calendario c'è dopo 30 anni, quant'è, dopo che quasi mancavano Ascoli, San Benedettesi, il campionato il 26 ottobre, il 29 ottobre a Riviera invece San Basco di Coppa Italia, dopo 40 anni di ma cioè, che bello, che bello, andate e ritorno, che bello. Ordine pubblico, sì, te l'ho detto che la questura sta così, sta così, sta così. Vedremo, vedremo, va bene, prendiamoci una pausa e yes, poi ci buttiamo nella parte dei gli altri sport. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, quella dedicata al fritto visto di sports, di solito insomma quello che riusciamo a trovare, allora ti tolgo subito la voglia di casa, ti tolgo subito la voglia, campioni del mondo di pallavolo bambino, maschi, ma perché non dovevo venire, siamo veramente sul tetto del mondo, noi pallavolisti siamo superiori, voi pallavolisti siete bravi, va bene, allora vabbè, parliamo di basket, bravi, ha vinto la Fortitudo, parliamo di basket, possiamo parlare, possiamo anche un po' di basket, tra l'altro ha pure perso la Virtus, una domenica perfetta casuale, no, perché aveva perso già prima la semifinale di Supercoppa, porta sfortuna vincerla, l'ha vinta Milano e quindi tendenzialmente, quindi va bene è, così insomma, quello, va bene così, quello è, però la Fortitudo dopo la prima sconfitta a Roseto si riprende in casa con una vittoria molto netta, 30 punti contro Scafati, in un campionato super equilibrato, tant'è che solo due squadre hanno due vittorie dopo due giornate, le altre tutte hanno una vinta, una persa oppure solo perse, non ho capito perché Pesaro non ha ancora iniziato a giocare. Curioso. Ma sai, noi marchigiani sono un po' così. Ah, sono le elezioni. Allora, ah no, è Pesaro, no, adesso Romagnoli. Ricordiamo che Pesaro. No, scusa, quelli sono della Romagna. Pesaro, scusa, è quella squadra, scusa, per cui è stato vietato retrocedere per anni. È il fatto vero, che non abbiano ancora giocato mi insospettisce sull'eventualità che vengano ammessi alla 1 così a caso. Ho perso questa situazione. Mm-hmm. Sono 0 vinte, 0 perse. Quindi comunque. 0 di tutto. 0 di tutto, 0 giocate. In realtà, comunque, diciamo appunto grande equilibrio, perché sono tutte tante che hanno una vittoria e una sconfitta, sono tante le squadre, sono 20, ricordiamo il dal punto di vista del calendario regolare del caso sono tante partite, la prima va su direttamente, poi c'è un bel playoff articolato, è tipo la Serie C, un po' come, cioè, la Serie tipo, C, tipo il playoff di Serie non C, non arriva a quei numeri, ma comunque un bel casino anche quello. In questo momento appunto Fortitudo che vince la prima in casa, diciamo così, e avrà Cividale la prossima in casa. Cividale che è in Friuli. Udine, provincia di Udine. Ok. È nell'angolino, Cividale è un posto geograficamente curioso, perché proprio lì ci devi desiderare fortemente di andare. Sì, non ci passi per caso. Questo per quanto riguarda appunto il basket, e per non parlare di pallavolo possiamo parlare di motociclismo, perché c'è stato anche il MotoGP, va bene? Meglio? Va bene, meglio, sì. Ha vinto la Ducati, dai. Vabbè, corre da sola. Ha vinto la Ducati, sì. Ti dico, ha vinto la Ducati, non so com'è andata, ma ha vinto. Allora, nel weekend. Ha vinto Bagnaia, ma il mondiale. Ha vinto Bagnaia, ecco, la sorpresa di quest'anno, diciamo così, è la vittoria di Bagnaia. E come che finalmente fa un weekend perfetto, quando ormai era già stato doppiato a livello di punti mondiale. In garbage time clamoroso. In garbage time si concede il lusso di festeggiare due volte, sia la sprint che la lunga, ma il titolo va, devo dire, meritatamente un bel po' a Marquez, a Motegi, pista insomma da non sottovalutare. Complimenti a Pecco Bagnaia, che ci ricorda che è ancora un pilota, ancora più complimenti a Marc Márquez, che comunque la sa, quest'anno ha fatto un campionato di lui è come Verstappen, però Verstappen è più malvagio, cioè più cattivo, ancora io più ti dico grinta, una cosa, io credo di appartenere al club che adora Max Verstappen. Beh sì, proprio per questo motivo qua parlavamo ci vuole il, sì, chiaro, un bel film serve l'antagonista serio, se no il film fa cagare. Cioè, se, se il villain non spacca il film, cattivo vuoi cattivo, ormai, sì, assolutamente deve essere per forza. Cattivo. Il cattivo è talmente skillato nel caso di Max Verstappen che nei weekend liberi dalla Formula 1 la paga tutti al Nürburgring, sì, si è concesso la 4 ore del Nürburgring con una Ferrari clienti appena presa la licenza per correre con quelle ruote coperte lì. La gara la fanno in equipaggio di 2, non di 3 o di 4 come, gli altri, e vincono con distacco abbastanza mostruoso. Cosa ha portato dire? Il suo amico, ha detto vengo io, mi hanno già fatta così, tanto tu non ti preoccupare, tanto ci penso io. Io faccio le prime due ore le faccio io, ti metti a passetto tu dopo ti metti a passetto le due ore le faccio io, gli altri dopo dovresti riuscire a ma tenere. Capito, perché questi sono personaggi che fanno bene al mondo del motorsport. Vabbè, sicuramente ha una capacità, va bene così, dai, cioè uno che proprio non c'ha cazzi, lui vuole solo correre. E anche Marquez appartiene un po' a quel tipo lui vuole solo corre, pur nel tempo libero vado a correre con una Ferrari 296 al Nürburgring, così. Non so poi cosa prevedono i contratti che c'ha con Red Bull, credo che lui abbia, non ho idea di come funziona, però insomma anche lì è una bella situazione. Paga una clausola per l'assicurazione infortuni molto alta. Molto alta. Molto alta. Penso proprio di sì. Questa è la situazione. Invece volevo chiederti, ne abbiamo parlato poco, le altre classi come sono andate? Allora, cioè, sia Superbike che Moto2. Allora, in Italia di Superbike vince Augusto Bulega, una bella gara. E Moto3 e Moto2 sono ancora così troppo ibride, anche lì a livello di regolamento si interverrà. In questo momento sono dei monomarca con dei monoblocchi strettamente derivati da motori di moto di serie incistati in prototipi a livello di telaio, ciclistica, sospensioni e freni. E i regolamenti andranno rivisti, perché non si è mai più arrivati a quell'idea di nave scuola che facevano le piccole due tempi. Le zanzare, 125 due tempi da gara, facevano 70 cavalli su moto di 90 kg, piccolissime. Muscole per davvero, la posizione di guida, l'erogazione era tutto diverso. La scia aveva un potere infinito, perché avevi comunque un grande livellamento. No, facevano dei filoni di tipo 7-8 piloti, uno in fila all'altro in scia, e poi a un certo punto si allargavano tutti nella ripresa, insomma, della camera. Era molto bello. Era una bella scuola, esatto, per i grandi bello. Campioni di un tempo molto passavano bello. Tutti sì, dalla 125, 250, e chi più e meno velocemente. Poi la 250 era la mia classe preferita, la 250. Beh, per tanti anni. Esatto, era una bella moto, ma non dei mostri come erano i due tempi dei due e compagnia. Era il Cadalora, a me piaceva molto il tedesco Bradley, se non mi sbaglio. Cioè, erano delle belle moto, però ancora si vedeva più il pilota che insomma la pura potenza. Beh, diciamo che per tanti anni, fine anni 90, inizio anni 0, comunque ancora 502 tempi, la 250 era più spettacolare, perché esatto. Di là c'era Mick Doohan, che era un cannibale, vinceva sempre con un NSR pure troppo più distante, come proprio mezzo tecnico. Posso, visto che stiamo in ambito motoristico, faccio un leggero volo pindarico. In macchina, Fio e io stiamo discutendo su una persona in particolare. Allora, Flavio Manzoni, vuol dire chi è? È lo chef executive del reparto design della Ferrari. Cioè, è l'autore di macchine come la Ferrari 12 cilindri, l'ultima F80, la 296, la Daytona SP. È uno che sa disegnare macchine, ok? Non è l'ultimo, è uno molto molto bravo. Però discutevamo sull'ultima uscita, sulla 849 ribattezzata Testa Rossa. Come ha detto qualcuno, è un mezzo che ci lascia perplessi. Cioè, molto, non sappiamo cosa sia successo alla mano di Flavio Manzoni. Non sembra cosa disegnata con l'intelligenza artificiale. Esatto. Non è un complimento. In questo caso, chiudiamo subito. E chiudiamo la parentesi motociclistica. Apriamo invece la parentesi dedicata al mondo del football, partendo prima da un grande risultato. Incredibile. Che non è la vittoria dei mondiali della pallavolo. No. È la vittoria degli europei da parte dell'Italia Flag Football. Ah, questo non la sapevo. Questa è diciamo, una gran bella notizia questa qua. Molto il flag bella. Football sarà sport olimpico, vero, e vero. Quindi comunque sta creando e si sta aprendo una strada importante, credo sarà Los Angeles nel 2028 presente come sport, ha già fatto la sua esperienza nel World Games, che noi sappiamo essere le Olimpiadi degli sport di Serie B, che noi supportiamo e siamo pronti ad andare a Karlsruhe, dove era la prossima edizione, andremo a Karlsruhe a seguirlo. Flag football, che comunque ha un suo senso, cambia molto. Vabbè, umanizza il football, lo rende praticabile da chiunque, senza rischiare di crepare. Esatto, al primo si gioca diciamo senza protezioni, perché per placcare un giocatore, per fermare il giocatore, bisogna togliergli una delle due bandierine che legate sul fianco, se non mi sbaglio, sì, fianco dietro. Esatto. Questo è comunque il resto dello sport, è simile, sono i lanci. Comunque vittoria importante degli europei, molto bella questa notizia, molto molto bella. Fammi vedere la divisa. Il wide receiver, che è tipo l'esterno d'attacco di questa formazione, di questa nazionale, si chiama Vinny Papale ed è il figlio di Vince Papale, che ha fatto l'NFL vera a Philadelphia. Allora, spieghiamo un secondo. Vince Papale era letteralmente uno di noi, ma nel senso letterale. Questo faceva l'operaio, non mi ricordo in che fabbrica, i Philadelphia Eagles. In un momento non andavano fortissimo, c'era un po' di carenza allo stadio. Che cosa fanno? Decidono di aprire gli allenamenti ai tifosi dei Philadelphia, e se uno di loro fosse risultato decente avrebbe fatto parte della rosa della squadra. Cioè, parliamo dei Philadelphia Eagles, NFL, è come se il Bologna decidesse di liberare un posto in rosa ad un qualsiasi tifoso del Bologna che va a far provino, ok? Questo che vince il provino è Vince Papale, che poi si fa tipo 6-7 anni in NFL, mi sa che vince anche un anello, non so se non mi ricordo, no, non aveva vinto mai forse Philadelphia. Fatto sta che si fa la sua bellissima carriera in NFL, partendo così, e cioè, esiste un film con un Mark Wahlberg fantastico, in cui interpreta appunto Vince Papale, e Mark Wahlberg c'ha sia la faccia da cazzo che la fisicità perfetti per fare Vince. Ve lo consiglio tanto il film, perché è davvero una storia proprio American Way, ok? Sai, American Dream, proprio la grandissima mossa che io ho sempre sperato succedesse anche qua in Italia. Cioè, quanto sarebbe bella una cosa del genere? Lo dicevamo scherzando. No, cioè, quanto sarebbe bella una cosa del genere? Lo dicevamo scherzando l'anno scorso del Verona, no? Che tu potevi andare a bussare la porta. Io gioco a calcio. Quanto sarebbe bella? Fatevi un provino. E quindi questa che mi dici, Fio, è una notizia strepitosa per quanto mi riguarda. Bene, è proprio bella, bella. C'è anche un collegamento con la storia. Bella. E allora a questo punto, visto che è iniziata la NFL, diamo un occhio anche alla NFL, in cui Philadelphia Eagles sono primi. Ma non so se sono campioni in carica, se non mi ricordo male, mi sa che l'anno scorso l'hanno vinto il quindi titolo. Ricolleghiamo e sono ripartiti bene, 4 vittorie, 0 sconfitte. Campioni in carica, pochi. Tu lo... E di là, però, i primi? Lo diciamo. Siamo noi. Perché sempre con 4 vittorie e 0 sconfitte sono i Buffalo Bills del nostro buffio. Allora, c'è la nomea dei Buffalo Bills campioni NFL a settembre, che è come il calcio d'agosto qua. Però, raga, cioè, Josh Allen è uno che ti fa innamorare come lo vedi la prima volta. Cioè, io tifo i Niners, ok? Però per avere Josh Allen vestito di rosso probabilmente sacrificherei Fio, ok? Fio sì, lo sacrificherà. Esatto. Però parliamo di una specie di eroe. Non so se avete mai visto Josh Allen bene in azione, è uno di quei quarterback che proprio ti infiamma, produce tipo 300-400 yard a partita, con almeno 3-4 touchdown a partita, coraggioso, si butta lui, difende, cioè è una cosa davvero grossa, è molto bello vedere Josh Allen, MVP in carica, l'anno scorso è portato a casa il tiro. Ma stavo guardando le immagini di un clamoroso 40 pari tra Green Bay Packers e Dallas Cowboys, che sono state le autrici della trade più clamorosa dell'anno, che ha portato Micah Parsons da Dallas a Green Bay, che te la faccio su un parallelo calcistico, sarebbe come se Van Dijk passasse al Manchester United o al Real Madrid, cioè parliamo di questo tipo di grandezza qua. Finisci con 40 pari, stavo guardando una partita clamorosa. Senza supplementari? Con i supplementari, se non ho capito male. Con i supplementari rimane 40 pari. E succede molto raramente il pareggio, non è previsto. In America dicono che pareggiare è come cominciare con la propria sorella. Cioè, sì, per dirti cosa pensano gli americani del pareggio. Un clamoroso 40 pari. si sono divertiti. Beh, sono divertiti, è stata una partita. Si sono divertiti. Battagliata. Dicevi dei San Francisco 49ers. Non sono riuscito a seguire, però mi sembra perso. Perché lista infortuni clamorosa. Sì, 21-26 contro Jacksonville Jaguars. Sì, hanno pure bisticciato, non ho capito bene per quale motivo i due capi allenatori, non ho capito bene, c'è stata una specie devo approfondire, cioè. Comunque la prima sconfitta dopo tre vittorie, appunto potrebbe essere un momento difficile, anche perché c'è molti infortunati. Sono un paio d'anni che insomma andiamo male a livello di infortuni. Il resto male, è uno sport in cui gli infortuni sono presenti, anche sai, come tutti gli sport veri, capito? Dove sono previsti gli scontri fisici, tu devi saltare l'avversario in qualche maniera, non c'è niente che ti divide tra te e l'avversario, era solo per dire. Suggestione dal Regno Unito: in molti dei pub che abbiamo frequentato nei tre giorni passati a Birmingham, i grandi televisori, negli orari in cui bevono solo i cinghiali e gli autoctoni, proiettavano continuamente e ossessivamente la Ryder Cup di golf, che ha evidentemente un seguito che noi non ci immaginiamo, ma la gente che si beve le birre di pomeriggio trova vuol piacere vedere questo di rilassante, sport di lento, continuamente privo di ritmo sul televisore più grande, che meglio le freccette. Le freccette e il sono golf molto meglio, che fanno proprio veramente, danno un tono all'ambiente, arredano il locale. Cioè, allora, le freccette allungano il ritmo. Nel senso che ma un po' sono eccitanti le precedenti, cioè, poi hanno sempre un bellissimo pubblico. Gli aficionati, cioè, sono molto caldi. Cioè, il golf è un po' più noioso, dai. Molto noioso. Sport, cioè, poi per però c'è stato Ryder Cup che ha visto vincere l'Europa. Sì, la formula è a squadra Europa contro gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti se la sentono talmente calda che sfidano tutta l'Europa e perdono. Stavolta, dopo 13 anni, però. Dopo 13 anni. In realtà è davvero difficilissimo da seguire, cioè se guardi uno schermo con 3 minuti di Ryder Cup il tuo cervello va in pappa. Ah, dici che forse lo usano per quello, per anestetizzarsi insieme alla birra. Ma sai che pare essere invece uno degli sport più, diciamo, praticati dagli ex atleti di tutti gli altri sport. Ma certo, perché sono ricchi, hanno molto tempo libero e non hanno più legamenti, e allora vanno in giro con la macchina elettrica per la collina a giocare a golf. Io perfetto, direi che insomma abbiamo trovato forse il senso di tutto questo. Esatto, intanto mancano pochi minuti prima una di una parola su Pogacar, non la diciamo, una parola su questo mostro, cioè, non so più veramente tu dici una parola ma non so più che dire, effettivamente, cioè, incredibile, certo. Vittoria incredibile, non per in quanto vittoria, esatto, ma in quanto per come l'ha fatta, cioè in ma un mondiale. Però, lui però fa sempre così le vittorie. Sì, attacca sempre tipo da 80 km, 100 km. Adesso 50 sì, perché gli dicono sempre: però devi fare qualcosa di nuovo. Ah, tu ci fai qualcosa sempre altro. Più dietro. In un mondiale è ancora più difficile farlo, partire da così lontano. Era il primo mondiale in Africa, quindi comunque un po' un evento, certo, per il movimento ciclistico. E il migliore ha voluto dare insomma il segno di essere nettamente più forte del secondo. Evenpool è arrivato in lacrime al secondo posto, cosa posso fare di più? Diamo dei numeri, era dal 1987, e io me lo ricordo bene perché ce l'avevo all'interno della biglia con cui giocavo in spiaggia, che un ciclista non chiudeva il triplet, cioè giro, tour e corona iridata, nello stesso anno. Era Roche, il 1987, non so, adesso sono tipo 38 anni che non succedeva. 38 anni che non succede. Ha vinto classiche, vincendo nel frattempo, cioè, qualsiasi cosa. Tutto. E, appunto, in questo momento il problema è: troviamo qualcuno simile a lui, perché sennò il ciclismo vive sui grandi. Ah, raga, cioè, è capitato lui, è troppo più forte. Cioè, nel senso, veramente. Un dualismo dello sport. Vingegaard, un paio di tour, l'ha vinto. Sì. È sì, tipo Gimondi con Max, vinse 2 tour e nelle collate ne vinceva 5, 6, 7, non so cosa ne ha vinti. Cioè, per poter insomma avere un salto in più nella. Perché adesso cosa può fare di più quello che ha fatto? Niente. È incredibile. O lo fai partiti quel giorno dopo. Esatto. Nelle grandi classiche tappe si parte il 20 maggio e tu parti il 21. E invece per quanto riguarda il tennis, visto che oltre alla pallavolo siamo. Ma tu ci fai, allora, io non sono cattivo, ti faccio un disegno facile. Non riusciamo più a dominare uno sport in cui oggettivamente eravamo dei grandi, ecco, non ci riusciamo più, perché finché non torni ai mondiali vuol dire che non ce la fai ormai da un po', ma invece siamo diventati giganteschi in tutti e due gli sport in cui è prevista una rete che ti separa dall'avversario. C'è è possibile motivo, secondo voi, che non ci sia qualcosa di matematico, fisico, che leghi e tutto? Sì. Io sono sicuro di sì. Potremmo studiare. Io sono certo di sta cosa. Non so se avete visto la gaffe di Busetti, che è uno che insomma già bestemmia come un turco, e quindi molto talentuoso, però ha qualche limite, diciamo, su questo. E dopo, quanto cazzo tossiscono questi cinesi in Cina durante il torneo, diciamo, non è molto smart come cosa in uno sport che ha lo stigma veramente dell'ipocrisia addosso, dal cartello silence please a prati sciacquoni in poi, cioè l'idea che il pubblico si deve essere comunque fermarsi in un certo senso. Siamo al Pechino, ATP di Pechino, domani credo che ci sia il quarti di finale con Musetti, appunto, si vede già in semifinale, è già passato in semifinale e giocherà fra due giorni. Ovviamente, insomma, è un periodo d'oro per il tennis. Siamo arrivati alla fine e a questo punto diamo appuntamento alla prossima settimana. Bella, ciao.